ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo dodicesimo. Le tre sorelle, Chiara Stella la fattucchiera. L'estate di quell'anno fu assai triste per i napoletani, materialmente e moralmente. Anzitutto, dalla fine di giugno, lo scirocco estivo si sciolse in pioggia. I temporali coprivano di nuvole nere il golfo. Lampeggiava dietro la collina di Posillipo, lampeggiava dietro la collina di Capodimonte e gli acquazzoni estivi, sollevanti un acre odore di polvere, roteavano per le vie della città dalle colline al mare, in piccole trombe di acqua che facevano fuggire i viandanti e contro cui i poveri cocchieri senza ombrello, laceri, con certi cappelletti sfondati sulla testa, non potevano far altro che ficcarsi le mani nelle tasche della logora giacchetta e abbassare il capo sul petto. Ah, fu un'estate indiavolata, un vero castigo di Dio. Per questo San Gennaro aveva tardato tanto a fare il miracolo quell'anno. San Gennaro non sbaglia. Lo scirocco impetuoso sollevava le onde del golfo furiosamente ed esse diventavano livide di collera e schiumanti sotto la scura cortina dei nuvoloni. E tutti gli stabilimenti di bagni, dalla Marinella a Posillipo, dovevano tenere sollevati i tavoloni dei camerini di legno per lasciar passare il mare tumultuoso che altrimenti li avrebbe spezzati. Questo fu il vero disastro, irreparabile. Poiché le lunghe schiere di provinciali che arrivavano dalle Calabrie, dalla Basilicata, dagli Abruzzi e dal Molise per fare i bagni di mare e riempiono gli alberghi e le trattorie di secondo ordine e si ficcano in quattro in una carrozzella dove due stanno abbastanza male, quei provinciali che costituiscono la gran rendita estiva di Napoli, paurosi del cattivo tempo, sempre contando di partire la settimana prossima, finirono per non muoversi dai loro paesi. Quelli che erano giunti nella prima settimana di luglio e contavano di restare sino alla fine di agosto, dopo aver potuto prendere un bagno sopra cinque, affrontando il mare in collera, intimiditi e scoraggiati, avevano finito per andarsene, a Campobasso, ad Avellino, a Benevento, a Potenza, con molto dolore delle fanciulle e dei giovanotti. Una stagione perduta. Uno sciopero generale e un coro di lamenti, di imprecazioni che si sollevava a ogni nuovo scoppio di acquazzone. Finanche le serate alla villa, intorno alla cassa armonica, dove la banda municipale suona le sue vecchie polche e le sue variazioni sulla forza del destino di antichissima data, dove basta avere due soldi da pagare la sedia per godersi uno spettacolo grazioso di folla borghese seduta o in giro, due soldi per stare al fresco e per udire l'ingenuo concerto, finanche quelle serate così semplici, così economiche, così popolari, erano guastate. Fra le ragazze borghesi, per cui la villa è un'occasione di mostrare i loro modesti vestitini bianchi, in casa cuciti e in casa stirati, un'occasione per vedere l'innamorato anche da lontano, sotto una fiammella vacillante di gas, e di fare un altro passo sulla via, talvolta molto lunga, che conduce al matrimonio, fra queste ragazze era tutto un pianto segreto. E l'affittuario delle sedie si aggirava nei viali deserti, umidi, pieni di lumache, vedendo se nessuno veniva ad affrontare il cattivo tempo, o disperato si raccoglieva in un angolo del caffè Vacca a discorrere dei suoi guai con uno dei camerieri. Che stagione! La figliuola e il figlio di Don Domenico Maier, che negli altri anni andavano ogni sera alla villa a piedi, nell'andare e nel tornare facendo 3 o 4 chilometri, spendendo 4 soldi solo per sedersi, quest'anno crepavano di caldo e di noia nel loro quartino del Palazzo Rossi. Ma il padre anche era così torvo e la madre era anche più malaticcia e piagnolosa del solito. Mala stagione. Mala stagione per le tre sorelle, disperse in 3 punti di Napoli: Carmela la sigaraia, Annarella la serva e Maddalena la giovane che viveva nel peccato. Anzitutto era loro morta la madre, nel basso che la povera vecchia abitava insieme con Carmela, e malgrado che avesse avuto la cassa dei poveri della sezione Pendino e che fosse stata buttata nella fossa comune, nel gran carnaio dei miseri a Poggio Reale, pure Carmela aveva dovuto spendere 70 o 80 lire senza neanche aver la consolazione di sapere che sua madre era stata seppellita in una tomba separata. Per qualche tempo Carmela aveva pagato una piccola rata settimanale a una congregazione pia per poter avere alla sua morte o a quella di uno dei suoi l'accompagnamento, la carrozza e la fossa separata. Ma i debiti, la miseria e il gioco fatto per disperazione le avevano impedito di continuare a pagare le rate e aveva tutto perduto. E in tutto questo Carmela sentiva, oltre i guai noti, oltre la sequela delle miserie e delle umiliazioni, qualche cosa di segreto che le sfuggiva, come una disgrazia ignota che le si aggravasse sul capo, come la fatalità suprema che cominciasse a circuirla, non lasciandole via di uscita. Che era? Non sapeva bene, non si rendeva conto, ma era forse la profonda indifferenza di Raffaele e la brutalità con cui la trattava. Era forse il contegno truce del cognato Gaetano, il tagliatore di guanti. Era forse l'aspetto strano della sorella Maddalena, di cui ella non osava andar prendere notizia. E fra loro due, da tempo, un gran progetto si andava maturando per trovar rimedio ai loro guai. In tutto il popolo napoletano vi sono donne che hanno fama di grandi maghe, di fattucchiare merite ai cui filtri, ai cui esorcismi, alle cui fatture nulla resiste. Alcune, anzi, hanno una clientela larga, assai più di quella che può averla un medico, e quasi ogni quartiere si vanta della sua maga, capace dei più bizzarri miracoli, sempre però con l'aiuto di Dio e della Madonna. Ma la reputazione della gran fattucchiara, Chiara Stella, che abitava lassù, lassù, al vicolo 100 grade, presso il corso Vittorio Emanuele, era immensa. Non vi era bottega o basso, o strada, o piazza, o crocicchio, dove non si conoscessero e non si raccontassero i prodigi di Chiara Stella. Si diceva dappertutto che per avere la fattura di Chiara Stella bisognava chiederle cose a cui non fosse contraria la volontà di Dio, ma che nessuno, avendo obbedito a questa regola, era uscito malcontento dalla casetta delle 100 grade. Carmela, per tentare, c'era già stata lassù 3 volte alle 100 grade, e per avere la fattura da Chiara Stella ci volevano 5 lire per ciascuna e certi piccoli ingredienti da comperare. Dopo, se le due fatture riuscivano, secondo la volontà di Dio, le due sorelle avrebbero fatto un grosso regalo alla maga. Chiara Stella non prometteva mai certamente nulla. Ella parlava sempre misticamente, in una forma di dubbio. Ella aveva dei profondi silenzi a certe domande e pareva che non si curasse del denaro, si contentava solo di poco per vivere, contando sulla riconoscenza di quelle cui la fattura riusciva, per averne un dono più importante. Dopo, ma intanto 10 lire ci volevano, al minimo. Se no, non se ne faceva nulla. E per quante privazioni subissero in quell'estate così cattiva, giammai le due sorelle avrebbero potuto mettere da parte tutte insieme 10 lire. Ma i giorni passavano e le loro miserie morali urgevano quanto le materiali. Non trovavano altro rimedio, oramai. E sebbene a malincuore, Carmela si decise a vendere il vecchio cassettone dal piano di marmo, il mobile più importante della sua stanzetta, il cassettone che aveva comprato sua madre quando era sposa. Ne trovò a stento 12 lire. Tutti vendevano in quell'estate maledetta. Non vi era più un cane che volesse comprare 2 soldi di roba. La poca biancheria ella la mise in una canestra chiusa sotto il suo letto e quei grami vestiti li sospese a una cordicella attaccata a 2 chiodi lungo il muro umido. Ma aveva 12 lire. Fu in una domenica della fine di agosto, dopo aver udito la messa nella chiesa dei 7 dolori, che le due sorelle si avviarono per il vicolo delle 100 grade. Carmela aveva chiusa la casa e ne portava la chiave in tasca. Annarella vi aveva lasciata sua figlia Teresina, che si aggiustava una vesticciuola lacera dopo essere restata sino a mezzogiorno al lavoro dalla sarta. Erano 8 giorni che Carmela, vagando per Napoli nelle sue ore di libertà, non arrivava a trovare Raffaele. E Gaetano, il marito di Annarella, in quella notte dal sabato alla domenica, non era rientrato a casa. Nella chiesa dei 7 dolori, inginocchiate innanzi alla panca di legno bruno dove si mettono i poveri perché non si paga, esse avevano assai pregato durante la messa. E ora scendevano faticosamente gli scalini dell'erta scala che conduce da via 7 Dolori al corso Vittorio Emanuele, non parlando, comprese in un raccoglimento di vaga speranza e di vaga paura. Chiara Stella, la fattucchiara, abitava propriamente in un vicoletto cieco, silenzioso ma luminoso, a destra della scala che mette in comunicazione la grande arteria della collina con le piccole vene della Pignasecca, della Carità, di Montesanto. Una gran pace era in quel vicoletto cieco, ma lo scirocco umido di quell'estate aveva bagnato di un lieve strato di fanghiglia i ciottoli rotondi del selciato, tanto che vi si camminava con precauzione per non scivolare e senza fare alcun rumore. «Ci aspetta?» dimandò a fior di labbro Annarella che ansimava per le scale fatte. «Sì», disse anche sottovoce Carmela, entrando nel portoncino. Chiara Stella fece un cenno col capo per salutare. La fattucchiara era una donna di media statura, piuttosto piccola che grande, molto magra, con certe mani brune, lunghe e sottili, la cui pelle attaccata alle ossa si era fatta lucida. Il corpo aveva movimenti automatici, quasi che una volontà ne irrigidisse ogni muscolo. La testa era piccola e il volto corto, coi pomelli forti e rossi, con le mascelle salienti. La carnagione era di un pallor livido e caldo, il naso all'insù, breve. Ma l'interessante nel volto nevrotico della fattucchiara erano un par d'occhi dallo sguardo mobilissimo, la cui tinta variava dal bigio al verdastro, ma dove si vedeva sempre un punto luminoso, una scintilla. Uno sguardo che riassumeva in sé tutta la vitalità della persona. Sembrava che avesse 40 e più anni Chiara Stella, i cui capelli si conservavano nerissimi e la cui fronte era tagliata da una sola ruga profonda. Ma quando lo sguardo le si accendeva, come una irradiazione di giovinezza si faceva sul suo volto e sulla sua persona. Taceva, con gli occhi abbassati, e le due sorelle sentivano l'approssimamento, l'invasione di un gran mistero. «Abbiamo portato le 10 lire», disse timidamente Carmela, cavandone dalla cocca del fazzoletto e posandole sulla tavola accanto alla mano di Chiara Stella. La fattucchiera non batté palpebra. Solo il gatto nero levò il capo, mostrando i begli occhi gialli come l'ambra. «Avete intesa la messa?» chiese Chiara Stella senza voltarsi. «Sì», mormorarono le due sorelle. Ella aveva una voce bassa e roca, una di quelle voci muliebri che paiono sempre cariche di un'intensa emozione e che producono una vibrazione nel cervello, nell'animo di chi ascolta. «Dite 3 Ave Marie, 3 Paternoster, 3 Gloria Patri ad alta voce». In piedi, innanzi ad essa, le due sorelle dicevano le sacre parole delle orazioni. Ella stessa le diceva con la sua vibrante voce, con le mani congiunte a preghiera nel grembo sul grembiale di lana nera. Il gatto si era levato su, sulle grosse zampe nere, e teneva il capo abbassato. Poi, tutte insieme, le tre donne, dopo essersi inchinate 3 volte al Gloria Patri, dissero la Salve Regina. Le preghiere erano finite. La fattucchiara aprì il cassetto di ferro lavorato, tenendone sollevato il coperchio, in modo da nascondere quello che vi era dentro, e vi frugò con le dita a lungo. Poi, avendone preso certi oggettini, celandoli ancora con la mano, impallidì mortalmente. Gli occhi le si stravolsero, come se vedesse un orribile spettacolo. «Madonna mia, assistici!» pronunciò sottovoce Annarella che tremava di paura. Chiara Stella adesso, con un cerino giallastro acceso, aveva fatto bruciare 2 pastiglie dall'odore bizzarro, pungente e pesante nel medesimo tempo, e intentamente guardava nelle volute, negli anelli di fumo, quasi vi dovesse leggere una parola arcana. 2 o 3 volte gli occhi le si dilatarono, mostrando il bianco striato d'azzurro. Quando il fumo si fu dileguato, restò il profumo acuto e grave. Le due sorelle provavano già uno stordimento al cervello, forse per quell'odore, e monotonamente, senza guardarle, Chiara Stella domandò: «Sei tu risoluta di far la fattura a tuo marito?» «Sì, purché non soffra nella salute», rispose fiocamente Annarella. «Vuoi legargli le mani 2 o 3 volte perché in nessun giorno, in nessun'ora egli possa giocare al lotto?» «Sì», disse l'altra con slancio. «Sei in grazia di Dio?» «Così spero». «Raccomandati alla Madonna, ma in te stessa». Mentre Annarella levava gli occhi come per trovare il cielo, la fattucchiara cavava dal cassetto di ferro una sottile cordicina nuova. La guardava questa cordicina, mormorando certi versi curiosi, lunghi e corti, in dialetto napoletano, che invocavano la potenza del cielo, dei suoi santi e insieme di certi spiriti buoni, dei nomi strani. E la cantilena proseguiva. Chiara Stella, sempre stringendo nella mano la cordicina, sempre guardandola, quasi infondendovi il suo spirito. Anzi, 3 volte vi soffiò sopra, 3 volte baciò devotamente la corda. Mentre ella faceva queste operazioni, le sottili mani brune le tremavano e il gatto andava su e giù sul tavolone, agitato, gonfiando il pelo nero del muso. Annarella adesso si pentiva più che mai di essere venuta colà, di aver voluto fare la fattura a suo marito. Sarebbe stato meglio, assai meglio, rassegnarsi alla mala sorte, anziché venire a chiamar fuori tutti quegli spiriti, anziché mettere quel gran mistero pauroso nella sua umile vita. Ma se ne pentiva profondamente, col respiro oppresso e la faccia afflitta, desiderando di fuggire di là subito, di trovarsi lontano, nel suo oscuro basso, dove preferiva soffrire la miseria e il freddo. Era una sua sorella che l'aveva indotto a quel mezzo estremo. L'aveva fatto più per pietà di sua sorella, che ella vedeva così malinconica, così desolata, così consumata di dolore per l'abbandono di Raffaele. Non è bene, no, tentar così la volontà di Dio, con le fatture e con gli scongiuri. Già, tanto nessuna potente fattura avrebbe mai vinto la passione di suo marito. Ella gliel'aveva letta negli occhi inferociti, un giorno di sabato, l'indomabilità di quel vizio. Ella lo aveva visto maltrattare i suoi figli con quella rabbia compressa di chi è capace anche di maggiore brutalità. E quella fattura, vedete, quella fattura così paurosa nei suoi preludi, nella sua composizione, le sembrava un altro passo dato sulla via di un'oscura catastrofe. Ora Chiara Stella, il cui viso sembrava assottigliato, la cui pelle bruna luccicava, i cui occhi ardevano, aveva fatto i 3 nodi fatali alla cordicina, fermandosi ad ognuno per dire qualche cosa sottovoce. E alla fine d'un colpo, dal seggiolone dove era sempre restata seduta, si era buttata in terra in ginocchioni col capo abbassato sul petto. Il gatto nero, come furioso, si era buttato anche lui giù e adesso roteava intorno alla fattucchiara con quel giro convulso dei felini che stanno per morire. «Madre dei dolori, non mi abbandonare!» gridò Annarella fremendo di paura. Ma la fattucchiara, dopo essersi segnata furiosamente 2 volte, si alzò e in tono solenne disse alla moglie del giocatore: «Prendi, questa è la corda miracolosa che legherà la mente, che legherà le mani di tuo marito quando Belzebù gli suggerirà di giocare. Credi in Dio, abbi fede in Dio, spera in Dio!» Tremando, provando alla bocca dello stomaco il calore delle supreme emozioni, Annarella prese la cordicina della fattura che doveva mettere addosso al marito senza che costui se ne accorgesse. E ora avrebbe voluto andarsene, fuggire via, sentendo più forte l'afa di quella stanza e il profumo che dava le vertigini al cervello. Ma Carmela, smorta, sconvolta da quanto aveva visto e da quanto sentiva ribollire nel suo animo, le rivolse uno sguardo supplichevole per farla aspettare ancora. Chiara Stella aveva già cominciato a fare la fattura perché Raffaele amasse nuovamente Carmela. Aveva chiamata Cleofe, la decrepita serva, e le aveva detto qualche cosa all'orecchio. La serva era uscita ed era rientrata, portando nelle mani un piatto di porcellana bianca, un po' fondo, pieno di acqua chiara. Lo aveva portato tenendolo con precauzione fra le mani, guardando l'acqua, quasi ipnotizzata per non farne versare una goccia. Poi era scomparsa. Chiara Stella, piegata la faccia sul piatto, mormorava parole sue sull'acqua, poi vi bagnò un dito, lasciando cadere 3 gocce sulla fronte di Carmela che, a un suo cenno, si era inclinata innanzi a lei. Le 3 gocce non si disfecero, la fattura sarebbe riuscita. Poi la fattucchiara accese un candelotto di cera vergine che le aveva portato Carmela e mentre borbottava continuamente parole latine e italiane, lo stoppino del candelotto strideva come se si fosse buttata dell'acqua sulla fiammella. «Hai portato i capelli tagliati sulla fronte un venerdì sera quando la luna cresceva?» domandò Chiara Stella con la sua voce roca interrompendo le sue preghiere. «Sì», disse Carmela, traendo un profondo sospiro e consegnando una ciocchetta dei suoi neri capelli alla fattucchiara. Dal cassetto di ferro Chiara Stella aveva cavato fuori un dischetto metallico di platino, lucido come uno specchio, e vi aveva messo la ciocchetta di capelli, elevando 3 volte in aria il dischetto come se ne facesse offerta al cielo. Poi espose la ciocchetta di capelli neri alla fiammella crepitante del candelotto un po' in alto. La fiammella si allungò per divorare i capelli in un minuto secondo e attraverso il fetido odore dei capelli bruciati non si vide sul dischetto che un pizzico di cenerina puzzolente. L'incanto procedeva mentre Chiara Stella cantava sottovoce il suo grande scongiuro per l'amore. Una bizzarra mescolanza di sacro e di profano, dal nome di Belfegor a quello di Ariel, da San Raffaele, protettore delle fanciulle, a San Pasquale, protettore delle donne, un po' in dialetto napoletano, un po' in italiano scorretto. Prese dopo una boccettina dal cassetto di ferro lavorato, che conteneva tutti gli ingredienti per le fatture, e versò nell'acqua del piatto 3 gocce di un liquore contenuto nella boccetta. L'acqua diventò subito di un bel colore di opale dai riflessi azzurrastri, dove la fattucchiara guardò ancora per leggere in quella nuvola biancastra. La nuvola si avvolgeva in spire involute e Chiara Stella vi versò il pizzico di cenere dei capelli abbruciati. Man mano, sotto lo sguardo della maga, l'acqua del piatto si schiarì, diventò limpida di nuovo, e allora lei, fattasi consegnare da Carmela una bottiglina di cristallo nuova, comperata di sabato di mattina dopo essersi fatta la comunione, la riempì pian piano di quell'acqua del piatto. Il filtro amoroso era fatto. «Tieni», disse la fattucchiara a Carmela col suo accento solenne della fattura compita. «Tieni, conserva gelosamente quest'acqua. Ne farai bere qualche goccia nel vino o nel caffè a Raffaele. Quest'acqua gli infiammerà il sangue, gli brucerà il cervello, gli farà consumare il cuore di amore per te. Credi in Dio, abbi fede in Dio, spera in Dio». «Non è veleno, non è vero?» osò domandare Carmela. «Bene gli può fare e non male. Fida in Dio. E se continua a disprezzarmi? Allora vuol dire che ama un'altra e questa fattura qui non basta. Allora bisognerà che tu sappia chi è questa femmina per cui egli ti tradisce, che mi porti qua un pezzetto della camicia o della sottana o della veste di questa femmina, sia lana, sia tela, sia mussolina. Io farò la fattura contro di lei. Sopra un limone fresco inchioderemo con un grosso chiodo e con tanti spilli il pezzetto della camicia o del vestito, e tu butterai nel pozzo della casa dove abita questa femmina questo limone affatturato. Ogni spilla di quelle, figliuola mia, è un dispiacere, e il chiodo è un dolore al cuore di cui ella non guarirà mai. Hai capito?» va bene», mormorò Carmela, desolata alla sola idea del tradimento di Raffaele. «Andiamocene, andiamocene», le disse Annarella, che non ne poteva più. «Grazie della carità», disse Chiara Stella. «Grazie», soggiunse anche Anna. «Ringraziate Iddio, ringraziatelo», esclamò la fattucchiara esaltatamente. E si buttò un'altra volta in ginocchioni, pregando fervidamente, mentre il grosso gatto nero miagolava dolcemente, strusciando il muso roseo sulla tavola. Le due donne uscirono pensose e preoccupate. «Questa fattura non è cosa buona», disse Annarella con malinconia a Carmela. «E allora che si deve fare? Che si può fare?» chiese l'altra, torcendosi le mani con gli occhi pieni di lacrime. «Niente», disse Annarella con voce grave. Esse scendevano lentamente, stanche, abbattute da quella lunga scena di magia superiore alla loro semplicità intellettuale, accasciate dopo quella tensione di sentimenti. Un uomo ascendeva gli scalini del vicolo 100 grade, lestamente, dirigendosi verso la casa della fattucchiara. Era Don Pasqualino De Feo, l'assistito. Le due femmine non lo videro. Andavano, sentendo più grave il peso della loro vita sventurata, temendo di aver oltrepassato i limiti che alle pie creature umane si concede, temendo di aver attirato sul capo delle persone che amavano la misteriosa punizione di Dio. Thank you.